1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:16 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati a leggere i giornali con voi. Vi ricordo gli ospiti di oggi, avremo ospite tra un'ora esatta, alle 8:15, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, per parlare soprattutto della vicenda dello scandalo ATAC. Oggi i giornali le parlano ancora, soprattutto Repubblica che ha lanciato questa inchiesta, tra poco lo vedremo, poi parleremo della situazione politica in questo momento, ci sarà ospite con noi il direttore di Panorama, Giorgio Mulè, ci sarà ospite con noi il vice direttore di Repubblica, Massimo Giannini. Insomma, i due più grandi partiti, PD e PDL, sono alle prese, soprattutto il PDL, con dei problemi interni mica male. Lo so, la cosa più noiosa al mondo è il dibattito interno tra i partiti per i cittadini italiani. E d'altronde però si aspetta da qui all'8 dicembre per il PD soprattutto questo, e da qui a sabato, dove pare sia proclamata ormai la scissione per il Popolo della Libertà, una settimana o un periodo in cui i giornali parleranno soprattutto di questo per quel che riguarda la politica. È un dato di fatto, nel giorno in cui, ricordo, 28esima settimana decisiva per la riforma elettorale al via, proprio oggi è 28esima settimana decisiva per l'abolizione delle province al via, oggi, ovviamente in questa legislatura. Ora andiamo a leggere i giornali. È lunedì 11 novembre, le aperture dei quotidiani, il Corriere della Sera, Repubblica aprono sulla tragedia delle Filippine, è una catastrofe, 10.000 morti, così titola il Corriere della Sera, c'è la foto anche delle devastazioni del tifone Haiyan, mentre per Repubblica Filippine è una catastrofe, questo è il titolo di prima pagina. Fisco, semplificazioni ferme, così apre il Sole 24 Ore, mentre l'Unità, stabilità, ricordatevi del lavoro. E poi la politica per l'appunto per gli altri quotidiani. Per La Stampa, Berlusconi sfida Alfano sul governo, basta collaborare. Il Messaggero, strappo Berlusconi-Alfano. Il Giornale, Berlusconi venduto al PD, super inciuccio. Il Secolo XIX, Berlusconi gela Alfano, pensa a Fini. Mentre l'apertura del Fatto Quotidiano, che è il numero monografico del lunedì, soprattutto dedicato alle inchieste, è BAV, pendolari a bassa velocità. Un'inchiesta sui circa 3 milioni di pendolari che ci sono in Italia. Io voglio partire proprio dalla tragedia delle Filippine. C'è da dire che non ci sono ancora tante pagine, tanti articoli, perché cosa succede nel mondo del giornalismo quando non ci sono gli inviati, come in questo caso? Infatti tutte le firme dei quotidiani sono da Bangkok, dalla Thailandia, dal posto più vicino, ma vedrete che stanno arrivando, e quindi da domani ci saranno racconti più intensi e racconti più dettagliati di quello che sta succedendo. Per il momento ci si rifà molto alle foto, le foto che rimandano di morte e saccheggi dopo il tifone, così titola per esempio il Corriere della Sera, i superstiti ridotti come zombie. Leggo da pagina 2 del Corriere, Guido Santevecchi, che firma da Pechino: file di persone ammutolite dallo shock si sono formate tra le rovine dell'aeroporto di Tacloban nell'isola filippina di Leyte. Si vedono bambini scossi da un tremito inconsolabile, donne e uomini che barcollano tra i rottami e il fango, aspettano un aereo che li porti lontano dal disastro. Ma per ora solo gli elicotteri dell'esercito possono atterrare sulla pista devastata in quella città di 220.000 abitanti, che aveva 220.000 abitanti prima di essere spazzata via dal tifone Haiyan, perché i morti sono più di 10.000, altri 2.000 sono i dispersi. Vedo gente che cammina senza meta, come zombie in cerca di cibo, racconta il corrispondente dell'Associated Press Jenny Chu, studentessa di medicina mobilitata per i soccorsi. Ci sono voluti più di 2 giorni per capire che Haiyan, il più potente tifone mai registrato, aveva ucciso migliaia di persone. Pensate, tra il 70 e l'80% della provincia di Leyte è stato raso al suolo venerdì, ha detto il capo della polizia. 10.000 morti, 2.000 dispersi solo a Tacloban, il capoluogo, annegati o schiacciati dai crolli, ma sono state colpite almeno altre 6 isole centro-orientali dell'arcipelago che compone le Filippine. Le devastazioni più gravi, oltre a Leyte, sono a Samar e a Cebu. E quindi così inizia il racconto della tragedia. Ovviamente c'è già, come succede in questi momenti mediatici, anche quello che è stato eletto a eroe della rete, è un reporter che ha trasmesso nelle prime ore della devastazione del tifone Haiyan dal cuore del tifone, inviato della ABS-CBN, insieme al suo cameraman, è diventata una star del web. Vedrete la foto un po' ovunque, io la vedo su pagina 3 del Corriere della Sera, ma tutti i giornali la riprendono, con il suo racconto in mezzo a venti fortissime, piogge incessanti. Su YouTube è stato messo il suo reportage, è stato già visto più di 1 milione di volte. Ovviamente c'è anche la comunità filippina in Italia, che è una comunità molto molto numerosa, una delle più numerose, che è già mobilitata per cercare anche sia da una parte di avere notizie, alcuni non hanno notizie dei loro parenti, e sia anche per aiutare. Per esempio, racconta in prima pagina del Secolo XIX Matteo Indice l'angoscia di Rosi Colf a Genova, 4 figli dispersi nel tifone. A metà della messa a Genova, Rosi a uno scatto, come qualcuno che si sveglia, accelera il passo con gli occhi bassi. Qui nella chiesa delle scuole pie, nel centro storico, chiede di poter stare in una stanza. Rosi Panol Quilogna, una donna filippina di 48 anni, originaria di San Julian, centro dell'arcipelago straziato dal ciclone Haiyan, vive in Italia da quasi 20 anni, ma da 2 giorni gli amici e la sorella, con cui da tempo condivide la casa, non la mollano mai. Devono stare attenti che non ceda, perché, dice, nelle Filippine ho 4 figli ed è da sabato sera che tento di chiamare, provo e riprovo a telefonare, ma niente. C'è da dire che la prima cosa che cade anche in questo caso sono le telecomunicazioni. Insomma, della tragedia delle Filippine, le cui dimensioni sono ancora tutte da accertare. Oggi troverete qualcosa sui giornali, ma credo che da domani, con gli inviati dei grandi giornali che arriveranno lì, ci saranno ancora più dettagli. Venendo invece alle cose italiane, una notizia di cui abbiamo... un tema di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, proprio venerdì, quello della sigaretta elettronica, e manco a farla apposta è diventata la notizia da prima pagina su tutti i giornali. Perché? Perché, udite udite, cari ascoltatori, è caduto, cadrà domani per la verità, tra mille polemiche, il divieto, e quindi sarà possibile svapare, utilizzare la sigaretta elettronica, mi raccomando, in ristoranti, cinema e perfino sull'autobus, non nelle scuole. Nelle scuole rimane il divieto. È un dietrofront abbastanza clamoroso da parte del governo. C'è stata che cosa? Un emendamento portato avanti da Giancarlo Galan del Popolo della Libertà, che ha stralciato l'ultima riga di un comma di un e quindi ha presentato un emendamento nella legge sull'istruzione, che domani verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Quindi spunta questo contrordine, la sigaretta elettronica torna libera nei bus e sui bar, o meglio, forse al contrario, nei bar e sui bus. Sui bar sarebbe stato bello fumare sui bar. Insomma, via il divieto nei luoghi pubblici. Margherita De Bacca ne parla a pagina 23 del Corriere. Ma come? Non l'avevano bandita dai locali pubblici perché mimava il fumo vero e non evitava rischi per la salute? Proprio così, a giugno era comparso il divieto nel decreto IVA lavoro, mentre domani nella legge sull'istruzione, che verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, spunta il contrordine, emendamento presentato da Giancarlo Galan. Qualcuno ha pensato in una svista, ma Galan ha ribadito la bontà della sua scelta. Abbiamo corretto un eccesso di proibizione, il provvedimento di giugno era troppo restrittivo, ad esempio sulla questione della pubblicità proibita di fatto perfino nelle vetrine dei negozi specializzati. Dunque, ecco che in qualche modo respirano i produttori di sigarette elettroniche, anche se su questo, visto che è una normativa contraria a quello che si prevede nell'Unione Europea, ci sono molte polemiche. Una pagina anche dedicata a Repubblica, che mette notizie in prima pagina: la sigaretta elettronica non è più tabù, cade il divieto per ristoranti, cinema e bus. Si fa sapere che invece è un po' vietata in tutto... in tutta Europa. Per esempio in Francia le hanno vietate da poco nei luoghi pubblici, è considerato un prodotto che evoca il tabagismo e dunque viene paragonato alla sigaretta normale. Nei Paesi Bassi è consentita la vendita ma vietata la pubblicità di prodotti con nicotina, mentre Austria, Belgio, Danimarca e Germania considerano le sigarette elettroniche dispositivi medici, per essere vendute al pubblico devono essere registrate. E sta di fatto che insomma rischiamo di andare nei cinema la prossima settimana e vedere queste nuvolette di fumo che ci ricordano tanto gli anni 70-80, prima dei divieti, oppure nei ristoranti o sugli autobus. E beh, il dato di fatto è questo, e domani entra in vigore questa legge. Oh, noi alle 8:15 avremo ospite il sindaco di Roma, Ignazio Marino, a partire soprattutto dall'inchiesta dell'ATAC, dove negli ultimi anni si è scoperto, questo lo ha denunciato un audit interno dell'azienda stessa dei trasporti di Roma, e tutto questo è finito su Repubblica il giorno scorso, si è scoperto un sistema per fare biglietti clonati, quindi biglietti falsi, biglietti fasulli, poi spacciati per creare fondi per 70 milioni di euro l'anno con cui finanziare poi la politica a Roma. Un'inchiesta interna che è finita su Repubblica. Oggi Daniele Autieri e Carlo Bonini di Repubblica aggiungono una puntata e aggiungono del marcio al marcio, nel senso che il titolo dell'inchiesta oggi è ATAC, un altro appalto sospetto, spunta l'ombra dei clan sulla società dei ticket fantasma. E cioè racconta Repubblica che la società che è coinvolta in questa vicenda ha un nome importante, Sipro si chiama, è uno dei colossi italiani della security, racconta Repubblica, lavora da anni con enti pubblici e aziende private per un portafoglio di clienti che conta tra gli altri il Ministero della Difesa, Equitalia, la Regione Lazio, la RAI, Telecom, il Comune di Roma. Tuttavia la Sipro, racconta Repubblica, ha una storia aziendale faticosa. Finisce all'attenzione del presidente della Commissione Antimafia Europea, Sonia Alfano, rimane impigliata nei controlli della prefettura che nel 2007 gli nega la certificazione antimafia. Gli attuali proprietari della Sipro sono i figli dell'imprenditore siciliano Salvatore Di Gangi, nonché nipoti di Vittorio Di Gangi, detto Ernasca, arrestato il 9 maggio del 2012, accusato di aver in passato avuto rapporti con la banda della Magliana e con il suo cassiere Enrico Nicoletti. Da qui racconta Repubblica oggi, ovviamente, insomma, questa vicenda complica ulteriormente le cose, anche se scrive Repubblica questa familiarità oggettivamente complicata. Tuttavia non impedisce alla Sipro non solo di difendere con forza la propria onorabilità, ma soprattutto di vincere un ricorso al TAR con cui ottiene la cancellazione dell'interdittiva antimafia della prefettura di Roma. Sta di fatto che, racconta Repubblica, un altro appalto sospetto spunta l'ombra dei clan nella vicenda dell'ATAC. Ci mancava anche questa. Intanto andiamo a sentire la pubblicità qualche minuto e poi rientriamo da che cosa? Dalle due altre notizie importanti sui giornali, vale a dire la politica con il dibattito interno dei partiti e poi la legge di stabilità, le discussioni sulle tasse. 24 mattino. Ed eccoci qua, sono le 7:33 minuti, siamo pronti a continuare la lettura dei giornali. Allora, concentriamoci sulla politica. I due partiti che puntellano il governo delle larghe intese, PD e PDL, sono per motivi ben diversi in dibattito, no? Il PD discute in maniera un po' più pacata sulla questione dell'8 dicembre, le primarie, chi sarà il successore di Epifani, mentre il PDL sembra ormai agli stracci che volano in vista di sabato prossimo, quando ci sarà il congresso nazionale del partito. Ieri un'intervista di Alfano fatta a Sky ha suscitato la reazione di Berlusconi e molti giornali raccontano proprio di questo rapporto ormai rotto. Berlusconi a ministri e innovatori, state attenti, ricordatevi di Fini. Questo è il titolo che trovate più sviluppato oggi sui giornali, perché ieri è uscita sull'Huffington Post online un'intervista appunto in esclusiva a Silvio Berlusconi, nella quale intervista proprio il leader del Popolo della Libertà si riferisce alla vicenda fini, se si contraddicono i nostri lettori non si va da nessuna parte. Anche Fini e gli altri ebbero 2 settimane di spazio sui giornali, ma poi è finita come è finita. Così Berlusconi dice ai cosiddetti innovatori, ma anche ai ministri, cioè ai cosiddetti vicini al governo Letta, che sono sono Quagliariello, sono Lupi, sono Beatrice Lorenzin, Nunzia De Girolamo. Sono insomma i ministri capeggiati da Alfano. Argomenta ancora il Cavaliere: sono sicuro che presentando la revisione del mio processo con nuove testimonianze e documenti esclusivi riuscirò ad uscire da questo incubo, riuscirò a portare Forza Italia ancora sulla via del successo elettorale a partire da maggio con le elezioni del Parlamento europeo. Insomma, un Berlusconi che non demorde e ormai i ferri cortissimi tra lui e Alfano. Guardate La Stampa, pagina 6, Ugo Magri, Berlusconi, Alfano, ormai è guerra. Angelino va a fare questa intervista a Sky dicendo che è indispensabile per l'Italia mandare avanti Letta, il governo e le larghe intese, anche quando decadrà Berlusconi dal Senato, ed è questo dare per certa la decadenza del Senato di Silvio Berlusconi che ha scatenato la reazione dei cosiddetti lealisti a Berlusconi, Fitto che dà del traditore a Angelino Alfano, e poi la reazione di Berlusconi. Ma guardate che il clima si è avvelenato. Lo raccontano anche alcuni retroscena. Intanto l'amarezza di Berlusconi: mi hanno venduto al PD. Questo avrebbe detto ad alcuni nello sfogo che il giornale mette a pagina 3 nel retroscena di Adalberto Signore. Ormai mi hanno venduto al PD. Ma che il clima sia di estrema tensione tra Alfano e Berlusconi lo certificano alcuni retroscena. Pagina 9 del Corriere della Sera, Lorenzo Fuccaro racconta: col Delfino è rottura. La tentazione del Cavaliere ora è andare all'opposizione. La rottura, prima di che politica, è stata di natura personale tra il vice premier e Berlusconi, racconta il Corriere. Tra i due c'è stata nei giorni scorsi una burrascosa telefonata interrottasi bruscamente. Ad Alfano, infatti, erano giunte voci che un giornalista di Panorama stesse lavorando a un lungo servizio su di lui, facendo domande sul suo conto, come se stesse preparando una sorta di dossier. E di questo il vice premier ha chiesto conto a Berlusconi. Non ne so nulla, è stata la risposta di Berlusconi, ma non ha convinto affatto il vice premier, che ha buttato giù la cornetta sibilando: sappia che non mi farò accoppare dai suoi killer. Così avrebbe detto Alfano a Berlusconi. Da quel momento è cominciato a circolare tra i governativi il timore che sul loro conto ci si accingesse a usare il metodo boffo, ipotesi questa denunciata dallo stesso Alfano pubblicamente. E anche per La Stampa un'intera pagina, retroscena sempre di Umberto Magri a pagina 7, Angelino si infuria: presidente, non mi farà uccidere dai suoi killer. Questa è la frase che avrebbe detto Alfano al telefono con Berlusconi. Perché? Perché ci sarebbero giornali che starebbero indagando, il Corriere fa anche il nome di un giornalista di Panorama, cioè il nome della testata, il giornalista della testata Panorama. Tra l'altro noi avremo ospite il direttore di Panorama alle 8.30, Giorgio Mule. E a questa telefonata Berlusconi ha detto: non ne so davvero nulla. Ma che il clima sia davvero teso tra i due, se volete un'ulteriore dimostrazione, beh, basta leggere l'editoriale di Alessandro Sallusti oggi sul Giornale. Alfano ci prova ogni giorno a uscire dalla contraddizione nella quale si è cacciato, spiega e ripete come un disco rotto che Berlusconi è il capo, il meglio, l'unico, il magnifico, ma poi conferma che al dunque voto sulla decadenza starà coi carnefici e mollerà Silvio Berlusconi al suo destino. E Alfano, racconta Sallusti, mi ricorda quei figli e quelle nuore che, non potendone più del padre anziano, lo costringono tra ipocrite parole di affetto a ritirarsi in una casa di riposo. È per il tuo bene, gli ripetono, vedrai che starai da Dio, starai curato meglio, troverai un mucchio di amici, noi ogni domenica verremo a trovarti coi pasticcini. Lui, il padre, non capisce, sta benissimo dov'è, abbozza che deportarlo è come condannarlo a morte, che insomma un po' di gratitudine, senza di lui i suoi sacrifici, i figli sarebbero in mezzo alla strada, niente da fare. È per il tuo bene, fidati, ripetono i parenti serpenti. Tu non sei più lucido, noi siamo giovani e con la testa sulle spalle, noi vogliamo il tuo bene. Insomma, che paragonando Alfano a quei figli, ha paragonato anche Berlusconi a un vecchio d'auspizio, questo è il direttore del giornale. Comunque, al di là di questo, il dato di fatto è che vedete qual è il clima anche all'interno di testate di centrodestra, come il giornale che anche oggi attacca molto molto duramente Angelino Alfano. Per quel che riguarda, ma anche Repubblica ha una pagina su questo, frugano nel mio privato, ora basta, questo è il j'accuse di Angelino al Cavaliere. Ci sarà il cosiddetto metodo boffo, che poi chissà chi l'ha certificato, insomma. Ieri, prima, il vice direttore di Libero ci ha anche detto, insomma, che questo metodo boffo in realtà è un modo di dire quando che qualcuno tira avanti, si mette avanti quando si parla di legittime critiche, sta di fatto. Mentre invece il Partito Democratico, c'è tutta la disfida tra Letta e anche la corsa verso l'8 dicembre, dunque per le primarie per il segretario del PD. Diciamo, la notizia più interessante all'interno del Partito Democratico, che crea un po' di scompiglio, è le prese di distanze di Romano Prodi. Romano Prodi non andrà a votare alle primarie l'8 dicembre. L'accusa di Prodi: fallito il mio progetto di PD, così mezza pagina sul Corriere della Sera, ma anche un'intera pagina sulla Stampa, firma Pierangelo Sapegno. Prodi: nel PD è necessario dare spazio a una nuova leva. E tra l'altro dice Prodi: chi pensa che io abbia deciso di non andare a votare alle primarie per ripicca verso il PD dopo il voto sul Quirinale non mi conosce bene e non sa quel che dice. Sta di fatto che un'intera pagina, insomma, il PD, il colui che ha fondato questo partito, è il primo ora a prenderne le distanze. Va bene, va bene. L'economia, invece, per l'economia voglio, ci sono tanti articoli, soprattutto sulla legge di stabilità, ma voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto oggi sul Sole c'è una novità importante, mi sembra di dire, un'iniziativa che parte oggi. Sì, partono le pagine di risparmio. Tu hai dei risparmi, Alessandro? Sì. Ecco, allora sì. spieghiamo a te, a tutti coloro che hanno dei risparmi, come utilizzarli al meglio. Ci sono una serie di consigli pratici, anche ad esempio nelle pagine di oggi c'è tutta una disamina dei conti online, dell'utilizzo dei servizi online, quindi non solo i conti. Vale tenerselo anche per il futuro? Vale tenerselo, sì. Va bene. Ma poi guarda, c'è tutta una pagina dedicata agli investimenti per i minorenni, per i bambini, insomma, come mettere da parte un po' di risparmi per il futuro, che non fa mai male, insomma. Sono le nostre pagine, debuttano da oggi, ci saranno tutti i lunedì. Quindi è una specie di ritorno di una testata storica, se vuoi, perché risparmio e famiglia era un binomio storico che i lettori del Sole, diciamo, non più magari giovanissimi, ricordano ancora. Allora, tu, Mauro, oggi sul Sole 24 Ore ci sono tante due pagine, soprattutto sul, ma di più per la verità, sul fisco a livello locale, che questa è la grande incognita con cui gli italiani devono andare, si spera, non a sbattere, o comunque a fare i conti nell'immediato futuro, a capire se si pagherà più o meno tasse dall'anno prossimo. Bravo, hai proprio usato la parola giusta, fare i conti, perché tra il lavoro che viene presentato poi con l'articolo di Gianni Trovati e l'editoriale soprattutto di Salvatore Padula, si capisce molto bene una cosa, che ancora non riusciamo a farli questi conti. Dobbiamo aspettare di sapere se e come ci sarà tolta la seconda rata IMU sulla prima casa, che cosa decideranno i sindaci che hanno tempo fino a fine mese. Poi ce lo faranno sapere anche questi signori con l'online, con internet, entro il 9 di dicembre, però noi il 16 dovremo pagare, non prima di aver pagato l'IRPEF, di cui potrebbero cambiare ancora le addizionali, ma speriamo di no. Insomma, una serie di questioni, di ingorghi, che altro che le date, qui è un problema proprio di sapere quanto dobbiamo pagare, quanto dobbiamo mettere da parte. Anche per questo forse abbiamo deciso di puntare sui risparmi, perché conviene mettere da parte qualcosino nell'attesa che appunto il prelievo, che sicuramente salirà, il prelievo locale, si faccia conoscere in tutte le sue parti. Sicuramente salirà, quindi tu lo sai, non ce lo vuoi dire. Sai, non è che bisogna fare… Tu pensi male. Io penso male, io mi preparo sempre al peggio, come dire, non voglio dare illusioni, insomma, abbiamo dato delle illusioni sulla sigaretta elettronica, hai visto qualche giorno fa, certo. C'è stata questa sorta di liberalizzazione, quindi insomma, quando ci sono le buone notizie le diamo, ma ohimè, quando il fisco, come dire, ti prepara, ti guarda, tale o locale che sia, guarda, qualche rincaruccio, tocca dirlo. No, ma assolutamente. Ma scopriamo tutto sul Sole 24 Ore. Mauro, io ti devo salutare, che andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo appunto con gli articoli che ci sono sulla legge di stabilità e quant'altro. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora eccoci qua alle 7:47 minuti con la legge di stabilità. Sono 3.000 gli emendamenti alla legge di stabilità, pensate, 3.000. Però c'è un articolo interessante di Alberto D'Argenio a pagina 3 di Repubblica, quindi si discute molto della legge di stabilità. E l'articolo è una sorta di anticipazione. L'Europa blinda la manovra, promossa non va più cambiata. In realtà il giudizio definitivo arriverà venerdì, ed è la prima volta che Bruxelles, in virtù delle nuove regole del two-pack, si pronuncia prima dell'approvazione della manovra sulla bontà o meno di una manovra. È un giudizio temuto, ma la notizia migliore della giornata Enrico Letta la riceve proprio ieri, quando atterra a Malta, dove è in missione per parlare con il premier maltese dell'operazione Mare Nostrum. Ebbene, la news che lo fa esultare appena accende il BlackBerry è l'imminente promozione da parte della Commissione Europea della legge di stabilità, una svolta decisiva tenuta per ora top secret dagli uffici di Bruxelles, un aiuto alla tenuta della manovra di fronte all'assalto della diligenza in Parlamento programmato dai partiti con 3.000 emendamenti. Dunque, secondo Repubblica, l'Unione Europea si appresta assolutamente a promuovere la legge di stabilità che il governo ora ha mandato in Parlamento. Riguardo alle pensioni, invece, poi la notizia ieri di Enrico Letta, che si è presentato a Domenica In, tra l'altro gli hanno regalato la maglietta di Riccardo Montolivo, no? Con tanto bocca al lupo, Presidente del Consiglio, questa è la maglietta del capitano del Milan, risultato Montolivo espulso in Chievo-Milan, Milan in zona retrocessione, e tanti auguri ovviamente al futuro politico di Enrico Letta. Comunque, le pensioni, ha parlato soprattutto di questo a Domenica In, quando ha detto che l'indicizzazione va portata fino al completamento. Questa frase fa titolare al Corriere della Sera: pensioni agganciate ai prezzi, sì, di Letta. Che cosa significa? Significa per il momento che si rintroduce sì l'indicizzazione al 100%, vale a dire l'adeguamento totale al costo della vita delle pensioni, ma in realtà si rintroduce in che modo? Solo per gradi. La rivalutazione sarebbe al 100% fino a 1.500 euro, del 90% fino a 2.000, del 75% fino a 2.500 euro di pensione, del 50% fino a 3.000. Insomma, una reintroduzione della indicizzazione delle pensioni, ma non per tutti al 100%, ma ovviamente di questo si discute. Va bene. Voglio andare subito a raccontare alcune cose di sport, ebbene sì, c'è certamente la Gazzetta dello Sport, tifosi gobbi che l'attendete, eccola qui, che Juve tremenda, questo è il titolo con punto esclamativo, 3 ovviamente per le 3 pere rifilate al Napoli, ma lo sport e soprattutto la vergognosa messa in scena accaduta a Salerno, dove c'era Salernitana Nocerina, e la vicenda è un po' intricata, ma insomma agli ultra della Nocerina è stato negato per motivi di sicurezza andare in trasferta. Allora loro hanno detto: se noi non possiamo andare, anche voi giocatori, ricattando i propri giocatori, non vi presentate. Risultato: i giocatori della Nocerina sono presentati in campo, hanno fatto una farsa clamorosa, cioè si vedevano giocatori cadere in campo dopo 2 minuti di gioco per farsi sostituire, sì, ovviamente si sospetta, facendo credere di essersi infortunati con infortuni improbabili, di modo che alla fine sono rimasti in 6 e l'arbitro ha dovuto sospendere la partita. Tutti i giornali ne parlano, Repubblica in prima pagina, la ritirata, questo è il titolo, ma anche il Messaggero dedica: calcio shock, il derby deciso dagli ultra, farsa in Salernitana Nocerina, i giocatori ospiti minacciati dai propri tifosi fingono infortuni a raffica e la gara dura 20 minuti poi sospesa per inferiorità numerica. Un mondo sotto ricatto è anche il titolo dell'editoriale di Maurizio Crosetti in prima pagina di Repubblica a dire ricatto è quello degli ultra nei confronti delle società. Sono stati già individuati 20 responsabili, pensate che ci sono stati 3 sostituzioni in 120 secondi, cioè sono entrati in campo nei primi 2 minuti 3 giocatori si sono tra virgolette infortunati, vabbè, partita poi sospesa. Allora, ci fermiamo ed è il momento, prima di concludere, dell'articolo più inutile, scovato sui giornali oggi, la carta costa, e vince, stravince oggi il Corriere della Sera con un articolo che io non pensavo di poter leggere, ma invece sì, Maria Luisa Agnese ne parla a pagina 25, è un vero dramma per tutti gli italiani, già dal titolo, Le buone maniere 2.0. Nessuno risponde più al répondez s'il vous plaît. Ma com'è possibile? Sulla vostra posta compare l'invito a un party, a uno spettacolo teatrale, perfino un matrimonio con la classica formula RSVP, che gli italiani si chiedevano, ma che minchia vuol dire questo RSVP? Vuol dire répondez s'il vous plaît, cioè rispondete, se intendete partecipare o non partecipare, rispondere per favore. E invece voi non lo fate più, nell'era tecnologica cambiano i canoni delle buone maniere, e Maria Luisa Agnese racconta che è un dramma secondo i canoni della bella società, organizzare serate ed eventi, perché non si può più programmare quante persone arriveranno, quante persone ci saranno, non si sa più. E allora la socialité rena Cindy, ereditiera irachena, ha preso molto a cuore questa cosa, ha detto io rispondo sempre e se poi rispondo mantengo l'impegno, avete capito? Amici del Corriere, répondez s'il vous plaît. La carta costa, ma insomma dedicare un articolo a questa cosa non si può vedere, non si può vedere. Andiamo al giornale radio, rientriamo con il sindaco di Roma, Ignazio Marino.